baracchino. Eh? Lui, pote, non ti faccio dormire, appena affamato, hai capito? Brutto porco! A faccia tua, porco. Zitto, stronzo. Per te è quello. E le altre, vero? Baracchino? Eh? Altri baracchino, vero? Eh? Ora che ti mando la questura a casa tua?